Studiamo le ultime due Mishnayot di questo capitolo sesto del trattato di Yomah. L'ultima cosa che abbiamo descritto è stata la situazione in cui il Kohen Gadol ha mandato via il secondo capretto, quello che va verso Azazel, e abbiamo descritto il Kohen che lo porta. Avrebbe potuto anche essere non un Kohen, però poi alla fine non davano a chi non era Kohen, e tutta la descrizione del suo arrivo lì. Ora la Mishnah torna a descrivere quello che faceva il Kohen Gadol dopo che mandava via il Sa'ir, il capretto, l'Azazel. La Mishnah dice così, seguite le parole dentro la Mishnah dice: Balo etzel par vesair hanisrafin. Balo viene, il Kohen va verso etzel, presso di par, il toro di cui abbiamo già parlato, vesair il capretto, quello che rimane nel Bet HaMikdash, hanisrafin, che sono predisposti per poi essere arsi sul Mizbeach. Israf vuol dire fare ardere, bruciare. Ok? Già morti qua. Sì, già, la Shechita l'abbiamo già descritta, vero? E anche il sangue che è stato spruzzato, il sangue della Shechita. Ha buttato giù il capretto, adesso torna dagli No, altri. il Kohen Gadol non è andato a portare il Ah no, capretto, questo è il l'ha Gadol. Sì, mandato. questo è il Stiamo Gadol. parlando Sì, di sì, sì. nuovo del Kohen Sì. Gadol. Cosa fa dopo che ha dato via il capretto? Non è che aspetta, continua il suo Cioè, lavoro. mentre quello sta andando. Esatto. Allora, come abbiamo già detto, il loro sangue è già stato portato dentro il Kodesh, e il corpo di queste due korbanot già shachtate è appeso come in un mattatoio. C'erano nel Beit HaMikdash dei luoghi predisposti per la preparazione del korban. Nel giorno di Kippur il Kohen Gadol stesso veniva. Kera'an apriva la carcassa, diciamo, la prima cosa è che bisogna pulire prima l'interno, in ogni situazione di questo tipo. Vehozi et emurehen, e tira fuori dall'interno, vehozi, tira fuori le loro interiora, ma nello specifico stiamo parlando non in generale dell'interiora, ma di alcuni grassi presi dall'interno che andranno anche essi ad essere arsi sul Mizbeach. Netanan bamagis, li pone questi grassi, che la Mishnah chiama emurim, li pone nella magis. Il magis è un contenitore, un tipo di vassoio. Vehiktiran al gabe hamizbeach. Dopodiché saranno, e non subito, ma saranno portati come sacrificati, non sacrificati, arsi sul Mizbeach. Saranno portati sull'altare. Ovviamente parliamo dell'altare esterno, non quello interno del Ketoret, l'altare grande esterno. Poi la Mishnah dice: che la an bamiklaot. Allora, questa parola miklaot, ci sono due interpretazioni cosa vuol dire. Prima vi dico la prima interpretazione, poi la seconda. La prima interpretazione è che invece di leggere qui miklaot, come vedete che c'è una lettera ain in mezzo a questa parola, togliamo la lettera Ain, c'è cioè una seconda versione, e quindi si leggerebbe senza la Ain, si leggerebbe maklot. Maklot vuol dire bastoni. Cosa vuol dire bastoni? Vuol dire che il Kohen Gadol, dopo che ha fatto quello che doveva fare, come dicevamo, con la parte interna dell'animale, allora la dava in mano a quattro persone, che trasportavano la carcassa su quattro, su due bastoni e su quattro lati, due persone su ogni estremità di ogni bastone. Due e due tenevano l'animale su due bastoni, che la an letteralmente vuol dire, questa parola che abbiamo detto, che la an, no? Clia. Clia è come un intreccio, quindi li intreccia sui bastoni, vuol dire li pone sui bastoni in modo che non cadono, e poi sono quattro coanim che hanno questa, che la devono portare. Questa è la prima interpretazione, che è quella di Rashi. Invece c'è un'altra interpretazione, che è quella di Rambam, di Maimonide, e di un altro grande maestro dei Rishonim, che si chiama Rabbi Menachem Hameiri. E loro invece dicono, no, non si legge Maklot, si legge, come abbiamo letto all'inizio, ma Miklaot, Miklaot è dalla stessa radice di Kelaan, stessa radice dell'intrecciare, che la an ben miklaot, cioè li intreccia in degli intrecci. Che vuol dire in degli intrecci? Che venivano a questo punto tagliati, le carcasse venivano divise, tagliate, suddivise nei loro pezzi grandi, come si usa in una, diciamo, in una macelleria, e venivano messi uno nell'altro come in un intreccio, ok? Perché ancora non erano completamente, non erano ancora spellati, c'erano ancora diverse cose da fare. E di nuovo, anche secondo loro, venivano messi in questa maniera, come se fossero intrecciati, ma qui usiamo appunto la parola miklaot, però sempre trasportati attraverso queste due staffe, diciamo. Quindi c'è una differenza di opinioni riguardo la parola, se è maklot, bastoni, o miklaot, quindi sempre intrecciati. Intrecciati nel primo caso quasi interi, insomma, le carcasse, e qui invece tagliati a pezzi, intrecciati i pezzi e poi portati col pane. È così la differenza? Sì. Quello che viene portato qui, su queste staffe, che poi adesso vediamo dove vanno, praticamente qui in realtà si salta una fase, la fase di pulizia totale, di togliere la pelle e rimuovere solamente alcuni parti, che saranno quelli che andranno sul Mizbeach. Questo non l'abbiamo detto. Quello che diciamo è subito adesso sarà la successiva fase, cioè Vehozian le beta serifa, li fa uscire, Hozian le beta serifa. Cosa vuol dire beta serifa? Il luogo del bruciare, del fare ardere, vuol dire, non è un riferimento al Mizbeach. Beta serifa è il luogo dove si bruciano le cose che non vanno sul Mizbeach, ed è all'esterno del Bet HaMikdash completamente, e anche all'esterno delle mura di Yerushalayim. Ah, pure, proprio sì, fuori. Sì, non ci vuole molto, però è fuori dalle mura di Yerushalayim, cioè non è molto una grande distanza. Perché la Torah dice riguardo a questo servizio di Yom Kippur che il Par HaChatat, questo toro che rappresenta l'espiazione, e il Sa'ir HaChatat è quel capretto che rappresenta ugualmente il Chatat, che il loro sangue è stato portato all'interno, vengono poi portati fuori dall'accampamento, che tradotto in termini di Gerusalemme vuol dire fuori dalla città, nel deserto era fuori dall'accampamento, a Gerusalemme è fuori dalla città, e lì venivano arsi il loro, la loro carne, scarto. Il loro scarto. Sì, ma qui la maggior parte è scarto, tra virgolette, cioè solo scarto. Sembra che solo il sangue viene spruzzato dentro, gli emurim, questi grassi, vengono posti sul Mizbeach, e credo che tutto il resto, orotam, cioè or, è la pelle, besaram, la loro carne, i pirsham, vuol dire lo scarto dell'interiora, viene bruciato fuori. Quasi tutto. Quasi tutto. Però quando hanno tutto intrecciato, lì c'è ancora un po' di insieme. Lì ancora, esatto, per questo dico, lì si salta, diciamo, non si esplicita questa fase di ulteriore pulizia e suddivisione, diciamo così. Ma non era adatto al consumo? No, assolutamente, no, perché questo è, ci sono varie categorie. Spiego, ci sono varie categorie di korbanot. Una categoria che è questa, cioè la nostra qui rientra in questa categoria che dico adesso, che è korban olah. Olah, che letteralmente vuol dire che sale, no? Che in italiano lo si traduce un sacrificio olah olocausto, cioè viene completamente consumato. Allora questo è un korban olah. Tutti i korbanot chattat, tutte le korbanot che rientrano sotto la categoria di chattat, cioè di espiazione, sono olah. E il korban olah è totalmente dedicato ad essere bruciato e non c'è neanche una parte che viene consumata da qualcuno. A differenza di altre categorie di korbanot in cui ci possono essere delle parti da consumare da parte dei Kohanim, sì, e altre categorie e o che possono essere anche in parte consumate dalla persona privata che ha portato il korban, che anche che non è Kohen. Mm-hmm. Per esempio un korban todà, quando uno fa scampato pericolo, porta un korban todà di ringraziamento, quello rientra in un'altra categoria di korbanot che si chiamano shelamim. Shelamim è consumato in parte dall'altare, in parte dal Kohen e in parte da chi lo porta. Infatti la parola shelamim viene da shalom, fa pace per tutti, tutti sono contenti. Korban Pesach anche, però il Korban Pesach non veniva proprio messo sul Mizbeach, vero? Solo, non credo che, solo il sangue, se non sbaglio, solo il sangue, se non sbaglio, sì? Perdonami, una cosa che devo chiarire, per me ovviamente, quando un animale doveva essere preso, abbiamo detto, e preso, sì, e sacrificato, doveva essere perfetto, no? Senza difetti. Doveva essere senza difetti, c'è la lista precisa quali sono i difetti, quali non sono, sì, certo. Ok, rapportato oggigiorno, se oggi andiamo per fare un animale, prendiamo un animale e lo saltiamo per poi farlo diventare kasher, sì, non è automaticamente kasher finché non viene visitato all'interno. Giusto. Quindi prima, come potevano sacrificare un animale senza sapere se all'interno era puro? Dovevano controllare dopo. Lo ammazzavano così. Aspetta, non è una questione di purezza. Non è una questione di purezza. Aspetta, spiego. La domanda è valida. La domanda è, ripeto per la registrazione, che qualcuno si è lamentato che non si sentono le domande nelle registrazioni, giustamente. La domanda è, la bestia per poter essere considerata per diventare un korban deve rientrare in dei criteri di perfezione. Ok, dico dei criteri perché magari tu dici questa non è perfetta, ma per i criteri che la halakha richiede è perfetta, cioè non è considerata difettosa in questo senso, non può avere un mum, un difetto. Alcuni di questi difetti sono riconoscibili esternamente, quindi le korbanot, chi voleva offrire un korban, chiaramente c'era anche nel Beit HaMikdash stesso, in un apposito locale, un luogo dove si controllavano le bestie, e se passava quel controllo poteva continuare. Alcuni di questi difetti sono riconoscibili solo dopo che si sciachta. Ok? Allora, se si sciachta l'animale e si effettua il controllo interno e c'è un problema, allora deve riportare un altro korban. Non è un korban valido. Però questo lo si sa solo dopo la shechita. E che fine fa quell'animale? Lo si porta fuori, sicuramente viene bruciato fuori dal Beit HaMikdash. Fuori come quell'altro, sì. Con gli scarti. Perché non ci si può fare nulla. Non neanche mangiarlo, certo. Perché è già entrato nel Kodesh. No, mangiare non si può. Certo. A parte che non sarebbe kasher. Esatto. Oggigiorno è un simile a questo, ma non esattamente. Cioè, il criterio della perfezione, per così dire, dell'animale per rientrare nella kasherut, a differenza di rientrare nel korban, è minore come rigidità. Perché fuori non ce ne frega niente, tra virgolette. No, non che non ce ne frega niente, però abbiamo un altro criterio. Non siamo preoccupati dalla presenza di un mum, cioè di un difetto che può essere estetico. Magari per il korban non va bene, per la shechita va bene. ci preoccupiamo non della, del mum, del difetto, ma della terefa. Trefa. Maze trefa. Cosa vuol dire trefa nel suo senso vero? Noi oggi usiamo la parola taref per dire qualsiasi cosa che non è kasher. Cioè quello è un biscotto kasher, un biscotto taref. Però cosa vuol dire trefa? Trefa letteralmente vuol dire sbranata. Trefa allargato vuol dire un animale che ha qualche tipo di malattia o di difetto per il quale non potrebbe vivere 12 mesi. E l'Alaha ti spiega come riconoscere, c'è nella, nello Shulchan Aruch una sezione intera, anche complicata, che si chiama il Chot Terefot. Sembra studiare medicina quando si studia il Chot Terefot, perché... E allora, se si può già vedere da fuori che l'animale è considerata terefa, allora non si scelta. Alcune cose non si possono sapere, allora si deve fare un controllo interno dell'animale per vedere... Dopo la shechita, se è kasher o se è taref. E se dopo questo controllo che è già stato fatto, siamo a questo punto, sì, ci si accorge, cosa succede? Parli del korban o della shechita normale? No, del korban. Korban, sì. Cosa succede, parentesi, tipo quello sì, che è successo, che abbiamo visto succede quando dopo l'estrazione e l'estensione muore l'animale o non è utilizzabile? Beh, in questo caso la shechita è stata fatta. Uno è già avanti in tutta la procedura. No. Quando allora, abbiamo la bomba dislocato, dobbiamo vedere. Oh, bravo, adesso volevo dire anche questo. Un attimo solo. Allora, la prima domanda di Alberto è cosa succede se si fa la shechita nel Beit HaMikdash per il Korban, sì, giusto? Sì. E poi si fa il controllo dentro, sì, e non è kasher. Si accorge, e ci si accorge. Allora, niente, si toglie dal Beit HaMikdash, sì, sì, ma, e sì, bisogna rifare. Si riprende un altro e si... Bisogna rifare dall'inizio. Appunto, tutto quel dall'inizio. Korban non è valido. Tutto dall'inizio senza accorgimenti particolari tipo quello che si era detto quando... Che cosa abbiamo detto? No, non uguale a questo, ma quello, l'attenzione che bisognava avere... Sì. Beh no, lì no, era un discorso diverso perché erano due che avevano presi insieme. Esatto. Allora c'era tutto un discorso... Questo fa sei e quindi... Okay. Se fosse uno, basta rimpiazzarlo. Questa è un'altra cosa, non c'entra niente. No, cosa lo so coppia. Che non c'entra. Non c'entra era per dire se, come c'è una procedura studiata lì, c'è una procedura... Sì, però qual è la situazione lì? Lì non è un problema... da fare. No, no, lì non è un problema di shechita, non è nulla di particolare. Certo. È visto che c'è una coppia, allora bisogna rimpiazzare la coppia. Sì. Qui invece è un altro discorso. Come diceva David, anche il discorso di trefa non è solo valido... nel momento in cui si fa la shechita e si vuole mangiare la carne dell'animale, ma è anche valido nel momento in cui si fa la mungitura e si vuole bere il latte dell'animale, perché la halakha è che hayotzemina kasher kasher, hayotzemina taref taref, hayotzemina asur asur, ciò che esce da un puro è puro, ciò che esce da un impuro è in un puro. Allora se un animale è categorizzato, classificato come taref, quindi non lo si può mangiare, anche il suo latte è taref. Derivato. Tutto ciò che deriva da quell'animale. Sì, giustamente. Allora, quando i mashgichim vanno a fare i controlli della mungitura, devono anche sapere se c'è un animale che ha subito certi tipi di interventi chirurgici che lo rendono per la halakha trefa, per il buco, come bucano l'abomaso, che è uno degli stomaci dell'animale, eccetera. Non possiamo bere quel latte. Allora devono dire al contadino, no, questo lo devi mungere a parte, non entra nella cisterna, perché non è un latte che possiamo prendere. Quindi tre fa, però non pensando solo al cibarsi dalla carne, anche a quello che esce del derivato. Torniamo a noi, perché stiamo andando un po' fuori. Allora abbiamo detto, veozian le beta sere fa. Vengono portati, a parte i pezzi che vogliamo, questi due animali, cioè il par, il toro del Kohen Gadol e il capretto, quello che rimane dentro, vengono portati fuori da Yerushalayim e bruciati lì. Beit HaDeshen si chiama. Ora la Mishnah pone una domanda, ovviamente subito risponde. Umei matai metamein begadim. C'è scritto nella Torah la seguente frase, Ve'asoref, che non è scritta qui, Ve'asoref otam yechabetz begadav, la persona che li fa ardere a queste carcasse, Yechabes Begadav, dovrà fare immergere i suoi indumenti nel mikve. Vuol dire che questa operazione fa sì che lui diventi impuro e che anche i suoi indumenti diventino impuro. Allora la Mishnah pone adesso la domanda: me matai, da che momento in poi questa persona, i suoi indumenti sono impuri? Qual è il momento in cui lui deve fare attenzione e deve sapere che da quel momento in poi deve ripurificarsi? Sì, ma non era anche quello che ha portato, anche prima l'avevamo visto, sì, che ha portato il capretto. Sì, bravo. E la Mishnah spiega qual è questo momento. Il momento è Mishe Yetzeu Chutz Lechomata Azara, dal momento che queste persone escono dal muro della Azara, cioè il muro del Bet HaMikdash, non il muro del Monte del Tempio, che è più esterno ancora, il muro della struttura stessa del Bet HaMikdash, che si chiama la Azara, la sala, esce fuori da quel muro e già rientra in questo discorso qui di impurità. Ok? E la Gemara, nel trattato di Yomà, approfondisce esattamente qual è la fonte per capire che questo è il momento in cui si arriva a questa impurità. Rabbi Shimon Omer, però abbiamo una opinione che dissente, e la Gemara spiega per quale motivo. Rabbi Shimon dice: Mishe yitzat ha'ur berubban. Mishe yitzat ha'ur berubban. Ur non è or. Or vuol dire luce, come tutti sanno. Cosa vuol dire ur? Ur vuol dire fuoco. Mishe yitzat ha'ur berubban. Lui dice: no, non è tamè finché non è impuro, finché il fuoco non ha già preso la maggioranza di quello che deve bruciare. Ruban, arov, la maggioranza. Cioè la maggior parte di quello che va arso deve già aver preso fuoco, e in quel momento lui assume l'impurità. Non prima. Perché lui invece sostiene che quel versetto che vi ho citato, che dice «Ve'assorefotam yichabes begadav», colui che li brucia, cioè deve essere già in fase di... che possiamo considerare bruciatura, quindi la maggioranza, allora Yechabes Begadav, allora diventa impuro. Questo secondo Rabbi Shimon, ma la sua opinione minoritaria non è accettata dall'Alaha, e l'Alaha rimane come l'opinione dei Chachamim, qui espressa dal Tana Kama, il primo maestro della Mishnah. Dimmi. Chomà, il muro della Azara. Della Azara sarebbe la sala del Bet HaMikdash stesso, quindi... uscendo fuori dal Bet HaMikdash, che lui adesso si trova nel Harabait, ancora deve uscire fuori dal muro dell'Harabait, e poi deve uscire fuori dal muro di Yerushalayim, e lì c'è il Bet HaDeshen, il luogo della bruciatura. Uscendo fuori dall'Azara, cioè dal Bet HaMikdash stesso, già diventa impuro. Esatto. Però chi trasporta i pezzi già non sono impuri, dovrebbe essere. No. Loro non sono impuri. Perché devono essere impuri? Non... perché sono a contatto con i pezzi. Tu stai pensando all'impurità della morte. Nahon? No. Allora? Che impurità c'è in questi pezzi? Sai, chi dice che c'è l'impurità in pezzi? Perché tu tocchi dei pezzi che non sai manco se sono... poi c'è la kashrut in mezzo. No, non c'entra niente con kashrut. L'infezione dei attenzione pezzi, roba morta, che tu è morta, allora metti alcol sulle mani. No, allora dobbiamo fare una distinzione tra kasher, che è quello che è permesso cibarsi, sì, che non c'entra con tuma ve tahara, non c'entra con purezza e impurità. Okay. Sono due cose diverse. Può essere una cosa che è kasher ma è pura, o è kasher ma è impura, e si può mangiare perché è kasher. Se io sono in uno stato di impurità posso mangiare, non c'è nessun problema. Purezza è una designazione e kashrut è un'altra designazione. Igiene è un'altra designazione ancora. Allora se hai toccato i pezzi dell'animale ti devi lavare bene le mani col sapone e acqua tiepida, però non vuol dire che devi andare al mikve. Il mikve è una questione spirituale di impurità che si assume... quando si assume? Solo quando lo dice la Torah, perché non c'è logica, non c'è razionalità in questo. È una mitzvah che è un chok, è uno statuto che non ha motivazione razionale. umanamente parlando, sì, ovviamente. Allora, quella è Tumà, questo è Kashrut, e questo è che hai toccato, okay, i pezzi, io ti lavi le mani. Vabbè, è così. Mishnah Chet, prossima Mishnah, concludiamo il capitolo. Amru lo le Kohen Gadol. Come, torniamo al contesto, il Kohen Gadol ha mandato via il capretto, che andava mandato via, intanto ha fatto quello che abbiamo descritto nella Mishnah precedente. Quando gli arriva la notizia, adesso diremo, quando gli arriverà la notizia che quel capretto è arrivato al deserto, al monte Azazel, allora Amru lo le Kohen Gadol, gli viene detto e gli viene riportata la notizia, Higia Sair Lamidbar. Bisogna riportargli questa notizia che è arrivato il capretto al deserto. Perché? Perché la prossima fase del suo servizio non poteva iniziare finché non concludeva quella. Il sacrificio. Quella del Midbar, quello del capretto che andava fuori. Ora la Mishnah dice, Uminayin hayu yodim. Parentesi, da dove sapevano che è già arrivato il capretto al Shehigia Sair Lamidbar, che il capretto è giunto al deserto? E la Mishnah spiega, Darchiota Yosin, che i commentatori spiegano, questa non è una parola comune, spiegano che, e altri la scrivono in maniera diversa, Didkaot o Dirkaot, comunque, quello si intende è che facevano per tutto il percorso alcuni punti che erano più alti, o li facevano elevati o erano naturalmente elevati, e da un punto si poteva vedere il prossimo punto, okay, e in ognuno di questi punti c'era una, o non so, forse più, almeno una persona. Cosa facevano? Un menifin basudarin. Semplicemente, menifin basudarin, come si traduce, William? Con tipo segnali. Segnalavano con menifim, sbandieravano con dei sudarin, letteralmente sono come dei fazzoletti, diciamo, di stoffa, no? Possiamo WhatsApp chiamarli delle bandierine, eh? WhatsApp dell'epoca. WhatsApp, bravissimo, dell'epoca, sì. Questo sistema è durato. Che questo WhatsApp si può fare anche questo WhatsApp si può fare anche di Shabbat, di Moed. Vedi come erano avanti. Vedi. Allora non hanno inventato, non abbiamo inventato niente. Minifin basudarin veyodin, e in questa maniera si veniva a sapere shehigia sair lamidbar, che il capretto è giunto al deserto, perché la notizia andava tornava a ritroso indietro. Sì, però abbiamo già visto che non era così lontano. Quanto era lontano, vi ricordate? 10 chilometri. Sì, 12 miglia. Ok. Amar Rabbi Yehuda. Dice Rabbi Yehuda, perché abbiamo bisogno di queste bandierine? In teoria potremmo saperlo senza le bandierine. In quale maniera? Bahalo Siman Gadol Hayalahem. Avevano già un grande segno, una segnalazione importante che avrebbe potuto evitare questa storia qui delle bandierine. Perché? Lui dice così. Mirushalayim, dalla città, Gerusalemme, ve'ad Beit Chidudo, fino al luogo che si chiama Beit Chidudo, che sarebbe l'ultima località prima del deserto vero e proprio. Ok? Quindi da Gerusalemme fino alla prossima località sono shlosha milin, sono 3 miglia. Ok? Ora, premessa, Rabbi Yehuda è dell'opinione, questo lo dobbiamo capire per capire cosa sta dicendo Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda è dell'opinione che non è necessario che il Kohen Gadol debba aspettare finché il capretto viene proprio buttato giù da quel monte. Basta che arriva al deserto. Infatti, se voi fate caso, noi abbiamo detto solo la parola deserto. Abbiamo detto è arrivato al deserto. Infatti, mi ha anticipato la domanda. Per lui è sufficiente. Oh, bravo. Allora, per Rabbi Yehuda è sufficiente che arriva nel deserto. Anche per quanto riguarda il fatto che il Kohen Gadol possa continuare il prossimo servizio, andare alla prossima fase, è sufficiente che arrivi il capretto al deserto. Il deserto è dopo Beit Chidudod, cioè dopo 3 miglia da Gerusalemme, inizia già il deserto. All'inizio della prima postazione. Insomma. Esattamente. Anche perché la Torah dice di andare nel deserto, quindi non dice altro, quindi forse concettualmente è la fa è quanto dice, no. Comunque la Torah dice che va sulla Zazel, apposta, però in altra occasione dice il deserto. Allora per questo allora, lui dice, per questo dice, per andare alla prossima fase, è verissimo, per andare alla prossima deserto, fase, per andare alla prossima fase basta il deserto. Uh-huh. Ora, Rabbi Yehuda dice, quindi perché ci sarebbe bisogno delle bandierine? Basta che Holchin Mil, cioè lo si accompagna per 1 miglio a chi porta il capretto, vero? Abbiamo già studiato in precedenza che le persone preziose di Gerusalemme, cioè importanti, dignitosi, andavano ad accompagnare per 1 miglio il Cohen che portava il capretto, no? Quindi Orchin Mil andavano fino a, come diceva Alberto, la prima postazione che è a 1 miglio, Vechosrin Mil, poi devono tornare, lo stesso miglio devono tornare, giusto? Quindi vanno 1 miglio, tornano 1 miglio, poi Veshohin che dei Mil, semplicemente aspettano il tempo di camminare 1/3 miglio, senza andare da nessuna parte, il tempo necessario, in quel momento sanno che il capretto è arrivato nel deserto perché ci vogliono 3 miglia. Certo, E a quel punto il Kohen può continuare il suo lavoro. Questo è quanto dice Rabbi Yehuda. Dove ti sei perso? A quale miglio? No, ho capito la storia delle miglia, però allora forse mi sono dato. Quelli con la bandiera che servivano. Oh, è questo, sì. Quello che dice la Rabbi Yehuda, ma cosa servono quelli della bandiera? È la contestazione di Yehuda. Allora, Rabbi Yehuda, in effetti quello che noi abbiamo letto adesso non è esplicito, però è quasi esplicito. Noi abbiamo letto una discussione tra gli altri maestri e Rabbi Yehuda, nel senso che è evidente, e la Gemara lo spiega poi in maniera approfondita, ma è evidente da questa Mishnah che secondo i Chachamim è necessario perché il Kohen Gadol possa proseguire nella sua Avodah a fare la prossima fase del servizio, è necessario che il capretto di Azazel sia proprio nell'Azazel, che arrivi fino in fondo. E questo è possibile saperlo attraverso le bandierine, quindi spiegano come si può saperlo. Questo è l'opinione, questa è l'opinione dei Chachamim. Rabbi Yehuda dissenta da questa opinione e Rabbi Yehuda invece ritiene che non è necessario che per proseguire la prossima fase il Kohen Gadol deve attendere finché il capretto va giù dall'Azazel, è solo necessario che arriva nel Midbar, perché anche nella Torah una delle volte è scritto che il Seir viene mandato alla Midbar, dopo continua, allora per lui non servono queste bandierine, per lui è sufficiente che arriva fino al deserto. Si appoggia sulla frase. Questa è l'opinione di Rabbi Yehuda. Con tutto rispetto. La Halakha non anche segue Rabbi Yehuda. Perché no? Perché potrebbe succedere qualsiasi cosa in quel miglio. No, magari ma l'animale morire il Kohen. Però secondo lui è accompagnato il Kohen che accompagna. Ok. Secondo Rabbi Yehuda è sufficiente questo. Vuol dire anche se forse non arriverà la Zazel. Certo che deve arrivarci, ma anche se forse non arriverà, comunque possiamo dire a posteriori siamo usciti d'obbligo. Non ritiene un elemento essenziale. Secondo Rabbi Yehuda, esatto. La Halakha non è decisa come Rabbi Yehuda, come i Chachamim. Però adesso vediamo, c'è una terza opinione. E gli altri maestri. Rabbi Ishmael. Poi si aspetta il tempo di... Attenzione. Rabbi Ishmael Omer. Rabbi Ishmael dice Vahalo siman acher hayalahem, ma non avevano forse un altro segno ancora? Quale altro segno è il segno a cui si vorrebbe appoggiare Rabbi Ishmael? E la Mishnah spiega Lashon shel Zehorit, una linguetta di stoffa di lana rossa, simile a quello che abbiamo detto era sulle corna del, sì. del una parte si faceva sulle corna dell'Azazel, un'altra parte sulla roccia prima di mandarlo giù. Allora, anche nel Bet HaMikdash si legava una linguetta di lana rossa scarlatta al pitro shel heichal, sulla porta, sull'apertura del heichal. Non cambiava colore. Leggiamo la Mishnah, attenzione. O che shehigi asair la midbar, la Mishnah dice che quando il capretto giungeva al deserto, ora non entriamo se al deserto o all'Azazel, però si intende in maniera generica, quando la capara era stata effettuata, effettivamente l'espiazione divina era stata data, allora haya halashon malbin, quella linguetta scarlatta si trasformava di colore, diventava malbin, lavan, bianca, per indicare che i peccati sono stati perdonati. Shenemar, come detto nel profeta, im yiyu chataichem kashanim, se i vostri peccati saranno paragonati al rosso scarlatto, allora kashele gyalbinu, il perdono li farà diventare bianchi come la neve. E se questa si trasformava in bianco, allora si sapeva. Questo dice Rabbi Ishmael. E Kohen Gadol poteva proseguire il suo servizio senza aspettare bandierine, senza aspettare uno, due, tre miglia. Basta vedere se questa linguetta si trasformava in bianco. Sì, l'ha detto l'altra volta. Ora però bisogna citare una baraita che è citata nella Gemara, che ci fa un attimo un ordine nelle cose. Perché se così fosse, allora non è necessaria tutta la prima parte della Mishnah. La baraita spiega più dettagliatamente la seguente cosa. La baraita dice: in origine questa linguetta di lana scarlatta la si fissava, la si legava, il termine koshrin, si legava, all'esterno dell'entrata delle Hale, in modo tale che tutti potessero vederla. Dobbiamo ricordare che l'apertura, l'entrata, la porta del Heichal era molto grande, era alta, se non sbaglio 40 cubiti, vuol dire una ventina di metri, la porta molto imponente, e quindi si poteva vedere da tutto il Bet HaMikdash, anche forse da fuori del Bet HaMikdash, sul Monte del Tempio sicuramente, e forse anche fuori, chi stava dalla direzione est, diciamo, guardava verso ovest e vedeva. Ora, all'inizio si metteva lì. Hilbin, la braita dice, se diventava bianca la linguetta, allora la gente era contenta. Se invece no, la gente era scontenta e anche si vergognava. Com'è che la nostra Teshuvah non era sincera da poter far sì che sia accettata? Allora decisero che non l'avrebbero più messa all'esterno, per non fare come che sia una vergogna, come svergognare in pubblico il popolo ebraico, quasi una cosa così. Allora hanno istituito i maestri di farla legare all'interno della porta, cioè che non si potesse vedere da fuori. Ma ancora c'è scritto, ancora andavano a cercare e a vedere. Hayum mezzizin veroin, c'è scritto, cioè andavano a sbirciare. Brava, mezzizin min acharakim. E di nuovo la stessa situazione. Allora hanno deciso di non più fare in questa maniera, bensì, ora vediamo lo sviluppo delle cose, bensì invece di farlo, legarlo alle hal, legavano una parte alle corna dell'animale che veniva buttato, e un'altra parte alla roccia dalla quale veniva buttato. Ed erano queste due parti distinte. E non si legava più nel Bet HaMikdash stesso. Ecco che adesso abbiamo capito che la nostra Mishnah, prima di citare Rabbi Ishmael, stava parlando della situazione che poi era diventata, che non più si faceva. No, la nostra Mishnah all'inizio parlava di dopo. dove, sì, quando non si faceva più nel Bet HaMikdash la linguetta. Un uso che non c'era più. Non parlavamo di questo, esatto. Rabbi Ishmael fa riferimento quindi a un uso precedente, quindi non discute nella discussione del primo Tana della Mishnah. Non è omogeneo il confronto, perché sono due sezioni diverse. Esatto, cioè Rabbi Ishmael non discute con Rabbi Yehuda e il Tana Kama, il primo maestro della Mishnah. C'è una discussione tra Rabbi Yehuda e il Tana Kama per ciò che riguarda quando è che il Kohen può sapere che può proseguire. Ma Rabbi Ishmael non entra in questo. Rabbi Ishmael semplicemente cita un fatto che avveniva prima, cronologicamente, storicamente, ma poi non avveniva più. E quando noi abbiamo appunto studiato già nella, in una Mishnah precedente, di quella linguetta che veniva legata alla roccia, un'altra alle corna dell'animale, quella linguetta prendeva appunto il posto di questa qui che abbiamo descritto nell'Echal. Sulla roccia e basta. Quindi ci voleva la segnalazione. Ok. Cosa succederà dopo che appunto è arrivata la segnalazione? Vedremo più avanti che a quel punto il Kohen Gadol andrà a leggere il Sefer. E quindi questa era una prossima fase e doveva aspettare che finisse quella. E nel prossimo capitolo vedremo come e su quale brano avveniva questa lettura e dove. A questo punto, Baruch Hashem, abbiamo concluso il sesto capitolo del trattato di Yomah.